Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma prima andiamo con la sigla di questo programma. Bene, allora questa è la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics. Vi trasmettiamo da Radio Onde Furlane in diretta proprio radiofonica anche oggi 22 gennaio 2026 qui da Udine. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band statunitense che si era nata tra il 79 e l'80. Loro sono californiani, sono i TSOL e ci ascoltiamo un paio di brani. Yeah. Sì, un saluto anche da questa parte del vetro, bentornate, bentornati all'ascolto di Zernes Magnetics. Allora, per questa sera così pensavamo di dedicare alcune riflessioni, così alcune letture anche all'indigenità, cioè al fatto, all'essere, al concetto, diciamo, di essere indigeni, alla condizione anche di essere indigeni e a come questa condizione viene così vista, interpretata, anche manipolata da, soprattutto insomma, dalla cultura occidentale. Parliamo della cultura occidentale anche accademica, quindi proprio quella che si fa nelle università, ma anche così alla cultura diffusa, diciamo, occidentale. E per chi ha ricevuto la promo, e abbiamo appunto lasciato però un pezzo, diciamo, della frase introduttiva anche a una, così, a delle frasi di lotta, diciamo. Abbiamo scritto appunto: il colonialismo è una piaga, il capitalismo è una pandemia, noi siamo gli anticorpi. E questo è il finale di un articolo che poi andremo a leggere, interessante, un articolo scritto da Cli Benalli, un compagno anarchico della Nazione Navajo Diné, che è morto nel 2023, del quale abbiamo già parlato, insomma, qualche settimana fa, un bel po' di tempo fa in realtà, che appunto vuole esprimere un po' la forza anche della lotta indigena, quindi la forza della lotta indigena che si oppone anche appunto a queste strumentalizzazioni, a queste mitigazioni, a queste smorzature che magari appunto la cultura occidentale gli affibbia. Io direi che mettiamo un altro pezzo e poi partiamo proprio con gli argomenti. Eccoci di nuovo, quindi cercheremo di così proporre un percorso che va dai palestinesi, dalla Palestina alle appunto nazione Navajo e quindi le popolazioni dei nativi che sono costrette negli Stati Uniti di Arizona, Utah e Nuovo Messico. E arriveremo anche a un pensiero di solidarietà verso il compagno Miguel Peralta, e parliamo in questo caso della comunità Mazateca e di Eloxochitlán, spero di dirlo giusto, in Messico. E allora partiamo da questo. Sabato scorso c'è stata questa, anche a Udine, una così mobilitazione, un presidio in solidarietà con tutti i prigionieri palestinesi in Italia, con tutti anche gli inquisiti palestinesi in Italia. Ricordo che appunto il venerdì c'è stata la sentenza, insomma, definitiva, cioè adesso si andrà in appello, ma comunque la sentenza per Hanan, Ali e Mansour, con questa condanna a 5 anni e 6 mesi per Hanan e l'assoluzione di Ali e Mansour. E appunto in questo presidio di solidarietà a tutti i palestinesi della diaspora che sono inquisiti e imprigionati qua in Italia, si sono fatti diversi interventi, insomma. Un intervento di un compagno appunto che partiva dalle dichiarazioni di Hanan nelle varie fasi processuali, perché Hanan appunto ha sempre rilasciato delle dichiarazioni molto intense, no? Durante delle dichiarazioni spontanee molto intense nelle varie fasi processuali, e partendo anche dall'opuscolo dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria. E questo compagno appunto nel suo intervento ha parlato in maniera incisiva appunto di questa faccenda del passaggio nel linguaggio, nell'utilizzare la parola popolazione civile al posto di oppressi, popolazione civile come che sta per soggetto inerme, insomma in balia, diciamo, e passivo. E chiaramente di fronte a un'attribuzione di significato di questo tipo, cioè se la popolazione civile è un soggetto inerme e passivo, tutti coloro i quali e le quali rompono questa regola, diciamo, questo schema, diventano automaticamente terroristi. Ecco, quindi chiaramente popolazione civile non è solamente popolazione, perché la popolazione può essere disarmata o combattente, è sempre popolazione. Poi nel caso tra l'altro specifico della resistenza palestinese, tutta la popolazione resiste in varie forme. C'è chi è combattente, chi invece utilizza altri sistemi, ma comunque c'è una capillarità, una diffusione generale nella società civile, appunto, l'ho detto anch'io, nella società di questo istinto della resistenza. Però anche se appunto popolazione disarmata o combattente è sempre popolazione, mettendoci davanti il civile, diventa che civile è la popolazione disarmata, mentre quella combattente diviene incivile, barbara, minacciosa, appunto terrorista. Allora, questa manipolazione, diciamo, dei concetti, e quindi questo passaggio dal discorso della popolazione oppressa alla popolazione civile, si ricollega a questo altro approfondimento che vorremmo proporre, appunto, su questa condizione di indigeni. Indigenità non è una bellissima parola, è una traduzione un po' così, ma comunque c'è appunto, io ho letto questo articolo di questo studioso, questo antropologo palestinese che si chiama Izzedine Arai, il quale ha scritto questo articolo, insomma, dove problematizza il fatto che la cultura appunto occidentale romanticizza l'indigenità, e in questa maniera qua il rischio di questa coloritura romantica, diciamo, e il rischio è che si trasformi la lotta indigena in una metafora. E ci dice Izzeddin Harai che la Palestina rischia di essere intrappolata nella stessa logica di riconoscimento che appunto trasforma la lotta indigena in una metafora. E lui però appunto mette a fuoco il discorso del mondo accademico occidentale. Ci dice: sia negli ambienti degli attivisti che in quelli accademici, indigeno è diventato un simbolo morale di purezza e radicamento, un'identità che promette autenticità in un mondo percepito come separato dalla terra e dalla natura. Per molti questo, diciamo, la creazione di questo simbolo morale importante appare come un gesto radicale, un'unione di lotte attraverso storie e geografie. Però per i palestinesi il quadro potrebbe essere più complicato. Sì, il problema non è il paragone con gli altri popoli, con gli svariati popoli indigeni, perché appunto i palestinesi condividono molta esperienza con gli altri popoli indigeni, ma piuttosto, ci dice questo antropologo, l'uso della stessa retorica del riconoscimento che ha a lungo governato le rappresentazioni occidentali dell'indigenità. E allora per rovesciare invece questa, diciamo, questa visione romantica che depoliticizza la condizione indigena, Izzeddin Harai nomina un altro studioso palestinese, uno degli studiosi palestinesi più così influenti, che si chiama Azmi Bishara, che nel 2022 ha definito, diciamo, in questo modo, ha descritto in questo modo i palestinesi. I palestinesi sono un popolo indigeno nativo con coscienza nazionale. Quindi lui dice: questa distinzione è cruciale. I palestinesi sono un popolo indigeno nativo che aveva già sviluppato una coscienza nazionale, un sistema politico, prima di essere esposto al politicidio, all'espulsione da una forma di colonialismo di insediamento. Quindi in questa maniera qui non è che i palestinesi indigeni nativi sono diciamo solamente vittime del colonialismo di insediamento, no? Sono dei soggetti politici che già avevano una loro idea, diciamo, della convivenza sociale, dell'organizzazione sociale, e sono stati appunto spodestati dal colonialismo di insediamento. Utilizzando, diciamo, questo discorso della coscienza nazionale, quindi della coscienza politica, quindi della, diciamo, intenzionalità, anche Annan, no, diceva in uno di questi suoi dichiarazioni spontanee: io sono palestinese di nascita, la vita mi ha fatto questo regalo, non dipende da me, sono nato in Palestina, sono palestinese, appunto la vita mi ha fatto questo regalo, però poi la scelta di lottare per la libertà e per l'autodeterminazione è qualcosa che viene dopo, è una scelta, appunto, quindi presuppone una intenzionalità di liberazione. E questo appunto sì, viene appunto, si può definire anche come coscienza nazionale, coscienza politica. E allora, mentre appunto la visione accademica più culturale della condizione di indigeno e denota appunto un riconoscimento, l'autore Izzeddin Harai di questo articolo parla di riconoscimento liberale occidentale, un riconoscimento senza conseguenze, cioè esigue compensazioni, diritti culturali, rispetto per la propria memoria, narrazioni, appunto questa parola che sì, molesta un po', ma non c'è nessun riferimento, nessuna spinta, insomma, verso la sovranità della condizione indigena e anche verso l'autodeterminazione. E quindi ci dice: questa preoccupazione non è esclusivamente palestinese, è espressione di un disagio più ampio. Negli studi critici su come il quadro dell'indigenità possa riprodurre le stesse gerarchie che cerca di annullare. E quindi che cosa succede? Lui ci dice che praticamente di fronte ai fallimenti della centralità epistemologica occidentale, gli studiosi si aggrappano, diciamo, agli stili di vita degli indigeni come a un'alternativa epistemologica alla produzione di conoscenza occidentale. Quindi diventano la condizione indigena dei popoli indigeni e nativi, diventa una specie di deserto, però deserto fecondo, nel quale, insomma, appunto, gli studiosi possono, occidentali, possono rifarsi, possono ritrovare, diciamo, una freschezza, una autenticità che hanno perduta nella loro condizione, appunto, di studiosi. E questo, da un lato, ha prodotto, diciamo, anche nuove metodologie di ricerca che prendono sul serio le ontologie indigene, che quindi fanno anche un lavoro importante. E però, nonostante ciò, insomma, persiste una preoccupante riduzione. E quindi, appunto, viene ribadito che i popoli indigeni vengono spesso ridotti a entità culturali, immaginati come più vicini alla natura, alla terra, una forma di vita sociale immediata e cruda, e appunto diventano il deserto epistemologico in cui coloro che sono disillusi della modernità occidentale si rifugiano per rinnovarsi. Però, appunto, che cosa dicono invece gli studiosi indigeni? E dicono che il fascino, diciamo, contemporaneo per l'indigenità praticamente trasforma l'esistenza indigena in una metafora etica piuttosto che una richiesta politica. E invece ci dicono gli studiosi indigeni: la decolonizzazione deve comportare la restituzione materiale della terra e della sovranità. Quindi, quando si parla di questo, è una cosa, questo è un elemento reale, cioè i nativi e gli indigeni hanno diritto alla loro terra, a stare sulla loro terra che gli è stata rubata e a autogovernarsi come vogliono, cioè a organizzarsi come vogliono. Questa è una cosa, cioè, è importante, e tra l'altro, affermando questo principio di realtà, vengono a cadere anche tutte le le questioni di lana caprina su appunto popolazione disarmata o popolazione combattente, no? Oppure vengono a cadere tutte i pregiudizi e le strumentalizzazioni, e insomma tutto quello che vediamo anche che ha risvolti giudiziari pesanti, insomma, sul fatto di finanziare attraverso gli aiuti, finanziare la lotta armata, diciamo il terrorismo, perché nel momento in cui si sostiene la lotta di autodeterminazione di un popolo, si sostiene a 360 gradi questa lotta in tutte le sue forme. Se si prende veramente sul serio il discorso della decolonizzazione, e non è solamente un concetto, appunto, culturale per radical chic, alla fine la decolonizzazione vuol dire che chi colonizza se ne deve andare, e se ne va solamente con certi strumenti e lottando, non è che se ne va così per un miracolo, no? Quindi praticamente ci dice questo giovane antropologo palestinese: la sfida è affermare le realtà politiche e storiche dell'espropriazione palestinese senza permettere che vengano assorbite in una narrazione globale che ne neutralizzi la specificità radicale. Decolonizzare la conoscenza, in questo senso, non significa romanticizzare l'altro, ma affrontare le strutture che rendono l'indigenità comprensibile solo come perdita. E poi ci dice una cosa particolare, che la retorica della decolonizzazione rimangono a volte talmente simbolici al punto che descrivere Israele come uno stato coloniale di insediamento ha smesso di scandalizzare molti coloni, cioè molti coloni non si dissociano da questa definizione di stato coloniale di insediamento, anzi dicono questi coloni israeliani, affermano con orgoglio che Israele è uno stato coloniale di insediamento e che va bene così, mentre altri si vantano di affinità con le democrazie liberali di insediamento consolidate come Canada e Stati Uniti, ma l'elenco si potrebbe allungare. Ecco, ma insomma, per concludere, ma se la solidarietà con la Palestina va oltre la Palestina, e questo deve succedere, la solidarietà con la Palestina deve andare oltre la Palestina, abbiamo detto tante volte che è necessario portare la Palestina qui, no? Portare la Palestina a casa, insomma a casa nostra, e allora l'attuale campagna contro il genocidio, insomma, e contro l'occupazione deve essere colta come un'occasione per ripensare le condizioni materiali attraverso cui la violenza viene prodotta, mantenuta o al contrario disinnescata e smantellata. E quindi deve spingere verso un significato concreto della decolonizzazione, appunto, conseguenze concrete per la terra, la sovranità e la vita politica dei palestinesi e dei popoli indigeni di tutto il mondo. Ecco, questa era così questo contributo di questo antropologo Izzedine Arai, antropologo palestinese, che tra l'altro ha partecipato quest'anno, qualche mese fa, nel 2025, a un incontro in Italia, non mi ricordo adesso in quale città, comunque un incontro tra appunto antropologi solidali con la resistenza palestinese, che hanno voluto proprio affrontare questi temi insomma, senza tirarsi indietro, ecco, schierandosi in maniera chiara. Magari poi nel blog mettiamo anche questo riferimento, perché adesso mi sfugge appunto la città dove si è svolto questo convegno. Boh, ancora un po' di musica e poi continuiamo. Yeah. Eccoci qua, a proposito di questi argomenti che abbiamo trattato poc'anzi, insomma, sulle questioni dell'indigenità e come il colonialismo, insomma, non sia semplicemente l'unico principio attivo, diciamo, esista già qualcosa prima di quando arriva il colonialismo, esiste appunto, esistono le comunità indigene, ecco, per farla molto tranchante. Proprio stamattina abbiamo ricevuto una proposta che in merito alla campagna solidale internazionale in supporto al compagno Miguel Peralta della comunità mazzateca di Eloxochitlán de Flores Magón in Messico, parentesi a cui abbiamo tra l'altro dedicato la lettura di alcune lettere dalla latitanza circa un po' più di un anno fa, era la puntata del 24 ottobre 2024. Ma torniamo a noi. Allora, coordinamento solidale con Miguel Peralta ci invita a leggere un comunicato che andiamo con piacere, adesso è stato tradotto in italiano, poi daremo anche i contatti per seguire la vicenda, e vado direttamente a leggervelo. Sono trascorsi più di 3 mesi da quando alla prima corte collegiale di Oaxaca, è stato concesso il tempo necessario per risolvere il ricorso del caso 631-2022 dell'anarchico Miguel Peralta Betanzos. Ricordiamo che la persecuzione a Miguel e alla comunità di Eloxochitlán de Flores Magón inizia nel 2016 con l'attacco all'assemblea comunitaria di Elox da parte della famiglia Zepeda, alleata del partito Morena. Un processo che continua da anni e anni, con detenzioni, torture e attese che continuano a logorare i compagni che affrontano procedimenti legali, le loro famiglie, le loro comunità e chi si solidarizza con loro. Ora sembra che l'udienza e la sentenza della corte non arriveranno prima delle prossime settimane di gennaio o febbraio, anche se comunque non ci fidiamo ovviamente della parola dello Stato. È importante sottolineare che questa è uno degli ultimi ricorsi giuridici a disposizione di Miguel Peralta per sfuggire alla persecuzione politica da parte dello Stato messicano. Questa sentenza può avere diverse possibili conseguenze. Una è che la sua condanna a 50 anni di carcere venga confermata. Un'altra è che venga assolto da tutte le accuse e gli venga concessa la libertà assoluta. La posta in gioco è molto alta. Abbiamo già diffuso altri comunicati solidali al nostro compagno. Ci sono anche dei podcast di approfondimento di Bello come una prigione che brucia, trasmissione di Radio Blackout. Ora, come sempre, continuiamo a chiedere a individualità, collettivi e organizzazioni di mostrare la loro solidarietà a Miguel. Arte, grafica, lettere, dichiarazioni, eventi, azioni in strada. Tutto può contribuire a una dimostrazione di solidarietà. Libertà assoluta per Miguel Peralta. Contattaci, Facebook Libres.ia, Instagram Libres.ia, email libresiaelox@riseup.net. Ecco, questo qui era il comunicato in solidarietà. Le pagine dei social ve le ho lette, ma naturalmente è più semplice se ve le scrivo anche sul, ve le scriviamo anche sul blog, sulle varie, insomma, nostre forme di espressive. E niente, ancora penso ancora un po' di musica. Mi fai schifo, sporco, bastardo. Lo sfruttatore, sei solo un puttano bastardo. Sfruttatore, sporco, bastardo. E intanto stiamo ascoltando questa band che stiamo mettendo tra un intervento e l'altro. Loro sono i Messinesi Alterazione, band comunque che si era formata a metà anni 90 e si è sciolta alla fine proprio degli anni 90. È una band che è durata 4 anni e ha ben fatto uscire dei 7 pollici, tra cui anche questa, diciamo, compilation che raccoglie tutti i loro brani. Alterazione da Messina. Sì, continuando appunto a parlare di condizione indigena e di liberazione e di autodeterminazione e di passaggio dalla metafora alla realtà, volevamo proporvi anche la lettura di uno scritto che è teorico ma è anche poetico, insomma creativo. E si tratta di un manifesto antifuturista indigeno, appunto, come dicevo prima. Questo manifesto è stato redatto da Cle Benalli, questo appunto anarchico della nazione Navajo. Dico anarchico perché lui si definiva anarchico, però in realtà ha scritto anche molte, si ha criticato anche molto, diciamo, il discorso di appropriarsi, cioè di mettere delle etichette alle lotte di popolazioni come queste, insomma, delle etichette che gratificano più gli anarchici, magari bianchi, eccetera, piuttosto che le popolazioni stesse che non hanno bisogno, diciamo, delle nostre etichette. Comunque lui effettivamente si definiva anarchico, ha scritto diversi approfondimenti anche su queste faccende. Comunque questo manifesto è del 2020, quindi ha un po' di anni, appunto siamo proprio è dell'aprile 2020 e siamo proprio nell'epoca della pandemia e della sua gestione autoritaria. Infatti questo manifesto ci parla proprio della fine del mondo, cioè dice ripensare l'apocalisse, appunto, un manifesto antifuturista indigeno. Perché possiamo immaginare la fine del mondo ma non la fine del colonialismo? Viviamo il futuro di un passato che non è il nostro. È una storia di fantasie utopiche, di idealizzazione apocalittica. È un ordine sociale globale patogeno, di futuri immaginari, costruito su genocidio, schiavitù, ecocidio e rovina totale. Quali conclusioni si possono realizzare in un mondo costruito con ossa e metafore vuote? Un mondo di finali feticizzati, calcolati tra la finzione collettiva di spettri virulenti? Dai tomi religiosi all'intrattenimento scientifico romanzato, ogni linea temporale immaginata è costruita in modo così predittivo. Inizio, metà e infine la fine. Inevitabilmente in questa narrazione c'è un protagonista che combatte un nemico altro, una generica appropriazione della spiritualità africana, haitiana, uno zombie. E attenzione allo spoiler, non siamo né io né voi, molti sono pronti a diventare i solitari sopravvissuti all'apocalisse zombie, ma queste sono metafore intercambiabili, questo zombie altro, questa apocalisse. Queste metafore vuote, questa linearità, esistono solo all'interno del linguaggio degli incubi, ma sono allo stesso tempo parte dell'immaginazione e dell'impulso apocalittico. Questo modo di vivere, o cultura, è un modo di dominare che consuma tutto a proprio vantaggio. Si tratta di un riordino economico e politico per adattarsi a una realtà che poggia su pilastri di competizione, proprietà e controllo alla ricerca del profitto e dello sfruttamento permanente. Si professa come libertà, ma le sue fondamenta poggiano su terre rubate e la sua stessa struttura è costruita da vite rubate. È proprio questa cultura che deve sempre avere un nemico altro da incolpare, da rivendicare, da offendere, schiavizzare e uccidere. Un nemico subumano su cui ogni forma di violenza estrema non solo è permessa, ma ci si aspetta che venga messa in atto. Se non ha un altro immediato, lo costruisce meticolosamente. Questo altro non è fatto dalla paura, ma la sua distruzione è obbligata da essa. Questo altro è costituito da assiomi apocalittici e da una miseria permanente. Questa alterità, questa malattia di Vetico, e Vetico è una creatura leggendaria demoniaca, appunto appartenente alla mitologia dei nativi americani algonchini, questa alterità, questa malattia di Vetico è forse meglio sintetizzata nel suo stratagemma più semplice, quello del nostro rifacimento silenzioso. Sono sporchi, sono inadatti alla vita, sono incapaci, sono usa e getta, sono non credenti, sono indegni, sono fatti per servirci, odiano la nostra libertà, sono senza documenti, sono froci, sono neri, sono indigeni, sono meno di noi, sono contro di noi, fino a quando infine non sono più. In questo costante mantra di violenza riformulata, o sei tu o sono loro, è l'altro che viene sacrificato per una continuità immortale e cancerogena, è l'altro che viene avvelenato, che viene bombardato, lasciato in silenzio sotto le macerie. Questo modo di non essere che ha infettato tutti gli aspetti della nostra vita, che è responsabile dell'annientamento di intere specie, della tossificazione degli oceani, dell'aria e della terra, del taglio e dell'incendio di intere foreste, dell'incarcerazione di massa, della possibilità tecnologica di guerre che finiscono il mondo e dell'innalzamento delle temperature su scala globale, è la politica mortale del capitalismo, è una pandemia. L'invasione fisica, mentale, emotiva e spirituale delle nostre terre, dei nostri corpi e delle nostre menti per insediarsi e sfruttarci è il colonialismo. Le navi hanno navigato su venti avvelenati e maree insanguinate attraverso oceani spinti da un respiro corto e dall'impulso alla schiavitù. Milioni e milioni di vite sono state spente silenziosamente prima che potessero dare un nome al loro nemico. 1492, 1918, 2020. Eccetera. Le coperte della guerra biologica, il massacro del nostro parente bufalo, lo sbarramento dei fiumi vitali, l'incenerimento della terra incontaminata, le marce forzate, la prigionia a tavolino, l'educazione coercitiva attraverso l'abuso e la violenza, l'umiliazione quotidiana del dopoguerra, del post-genocidio, del commercio post-coloniale, del nostro lento suicidio di massa sull'altare del capitalismo. Lavorare, guadagnare, pagare l'affitto, bere, scopare, riprodursi, andare in pensione, morire. È sul ciglio della strada, in vendita nei mercati indiani, serve bevande al casinò, approvvigiona Bashas, che sarebbe una catena di supermercati. È bello che gli indiani restino dietro di te. I'm Uccidere l'indiano, uccidere il nostro passato e con esso il nostro futuro, salvando l'uomo, imponendo un altro passato e con esso un altro futuro. Questi sono gli ideali apocalittici degli abusatori, dei razzisti e degli eteropatriarchi, la fede dottrinale cieca di coloro che possono vedere la vita solo attraverso un prisma, un caleidoscopio fratturato di una guerra infinita e totale. È un'apocalisse che colonizza la nostra immaginazione e distrugge contemporaneamente il nostro passato e il nostro futuro. È una lotta per dominare il significato umano e l'intera esistenza. È il futurismo del colonizzatore, del capitalista, e allo stesso tempo ogni futuro mai rubato dal saccheggiatore, dal guerrafondaio e dallo stupratore. Si tratta da sempre di esistenza e di non esistenza. È l'apocalisse attualizzata e con l'unica certezza di una fine mortale. Il colonialismo è una piaga. I nostri antenati hanno capito che non si poteva ragionare o negoziare con questo modo di essere, che non poteva essere mitigato o redento. Avevano capito che l'apocalittico esiste solo in termini assoluti. Siamo sempre su Zardins Magnetics e stiamo leggendo il manifesto antifuturista indigeno Ripensare l'Apocalisse. I nostri antenati sognavano la fine del mondo. Molti mondi sono passati prima di questo. Le nostre storie tradizionali sono strettamente intrecciate con il tessuto della nascita e della fine dei mondi. Attraverso questi cataclismi abbiamo imparato molte lezioni che hanno plasmato ciò che siamo e su come dobbiamo essere gli uni con gli altri. Il nostro modo di essere si basa sulla ricerca dell'armonia grazie alla distruzione dei mondi, l'ellittica, nascita, morte, rinascita. Abbiamo un'inconsapevolezza di diverse storie del mondo che fa parte di noi, è il linguaggio del cosmo, parla di profezie a lungo scolpite nelle cicatrici dove i nostri antenati hanno sognato, è la danza degli spettri, i sette fuochi, la nascita del bufalo bianco, la settima generazione, i cinque soli, è scritto nella pietra vicino a Oraibi e oltre. Queste profezie non sono solo predittive, ma anche diagnostiche e istruttive. Siamo i sognatori sognati dai nostri antenati. Abbiamo attraversato tutto il tempo tra i respiri dei nostri sogni. Esistiamo insieme ai nostri antenati e alle generazioni non ancora nate. Il nostro futuro è nelle nostre mani. È la nostra mutualità e interdipendenza, è il nostro parente. È nelle pieghe dei nostri ricordi, piegati delicatamente dai nostri antenati. È il nostro dream time collettivo ed è ora, poi, domani, ieri. L'immaginazione anticoloniale non è una reazione soggettiva ai futurismi coloniali, ma è un futuro anticolonizzatore. I nostri cicli di vita non sono lineari, il nostro futuro esiste senza il tempo, è un sogno non colonizzato. Questo è l'antifuturo indigeno, non ci riguarda il modo in cui i nostri nemici danno un nome al loro mondo morto, o come riconoscono noi o queste terre. Non ci riguarda la rielaborazione dei loro modi di gestire il controllo o di onorare i loro accordi o trattati morti. Non saranno costretti a porre fine alla distruzione su cui si basa il loro mondo. Non li supplichiamo di porre fine al riscaldamento globale, perché è la conclusione del loro imperativo apocalittico e la loro vita è costruita sulla morte della madre terra. Seppelliamo entrambe le ali, quella di destra e quella di sinistra, nella terra che sono così affamati di consumare. La conclusione della guerra ideologica della politica coloniale è che i popoli indigeni perdono sempre, a meno che non perdano loro stessi. I capitalisti e i colonizzatori non ci condurranno fuori dai loro futuri morti. L'idealizzazione apocalittica è una profezia che si autoavvera, è il mondo lineare che finisce dall'interno. La logica apocalittica esiste all'interno di una zona morta spirituale, mentale ed emotiva che cannibalizza anche se stessa. È il morto che risorge per consumare tutta la vita. Il nostro mondo vive quando il loro mondo cessa di esistere. Come indigeni antifuturisti siamo la conseguenza della storia del futuro del colonizzatore. Siamo la conseguenza della loro guerra contro la madre terra. Non permetteremo che lo spettro del colonizzatore, i fantasmi del passato, infestino le rovine di questo mondo. Siamo la realizzazione delle nostre profezie. Questo è il riemergere del mondo dei cicli. Questa è la nostra cerimonia. C'è una canzone più antica dei mondi qui che cura più in profondità di quanto la lama del colonizzatore possa mai tagliare. È lì la nostra voce, siamo sempre stati guaritori, questa è la prima medicina. Il colonialismo è una piaga, il capitalismo è una pandemia. Questi sistemi sono antivita, non saranno costretti a curarsi da soli. Non permetteremo a questi sistemi corrotti e malati di rimettersi in sesto, ci diffonderemo. Noi siamo gli anticorpi. E in questo manifesto antifuturista indigeno, ripensare all'apocalisse, c'è anche una piccola, ci sono anche delle piccole note. Nel nostro passato, nel vostro futuro, sono stati gli attacchi non sistematici e non lineari alle infrastrutture critiche vulnerabili, come i distributori di gas, i corridoi di trasporto, le forniture di energia, i sistemi di comunicazione e altro ancora, a rendere impossibile il colonialismo dei coloni in queste terre. La nostra organizzazione era cellulare, non richiedeva movimenti formali. La cerimonia era, è, la nostra liberazione. La nostra liberazione era, è, la cerimonia. Abbiamo onorato i nostri insegnamenti sacri, i nostri antenati e le generazioni future. Non ci siamo presi il merito di nulla, non abbiamo emesso comunicati, le nostre azioni erano la nostra propaganda. Abbiamo celebrato la morte della solidarietà di sinistra e del semiope romanticismo apocalittico. Non abbiamo preteso nulla dai capitalisti colonizzatori. E intanto stiamo ascoltando questa band, loro sono i Blades, band berlinese che comunque credo sia un gruppo di italiani che si è trapiantato a Berlino, perché sono tutti nomi italiani, vabbè, lasciamo perdere. E mentre prima tra i vari interventi abbiamo ascoltato questa band svedese, i Satanic Surfers, da un loro album uscito nel 2018 dopo che la band si è riformata nel 2014, perché era esistita in precedentemente tra l'89 e il 2007. Rimaniamo quindi con questi italo-tedeschi Blades. Questi giorni sono uscite, sono state pubblicate sul sito del, che si chiama irrovescio.info, riflessioni sulla lotta alla guerra del compagno Luca Dolce, detto Stecco. La resistenza palestinese e il paradigma del Sumud hanno creato uno squarcio profondo nel mondo. Nelle teste dei potenti c'è invidia e disprezzo, perché chi ha la visuale e l'idea dell'uomo forte sa ben riconoscere il coraggio e la tenacia di chi si batte. Anche per questo la risposta è così feroce e totale. La sfida e lo slancio mettono in imbarazzo la volontà di potenza di un intero sistema. Coloro che sono al potere sanno che la resistenza non si fermerà e che altri la imiteranno con altre formule e prospettive, ma da essa ne trarranno ispirazione. Allora il potente impaurito userà tutte le tattiche storiche e tecnologiche per scardinarla, per annientarla alla radice. E poi scrive ancora, in Occidente, a proposito di Olocausto e Nakba, in Occidente però, giusto per capirsi, è stato costruito un regime della memoria che vieta paragoni e accostamenti, il che porta a ritenere che un genocidio debba assumere, per essere nominato, la forma radicale dell'Olocausto. Loro suggeriscono la via del perturbamento empatico, che vuol dire confrontarsi con il trauma altrui per una nuova grammatica morale. Loro sono gli autori di un Olocausto e Nakba, narrazioni tra storia e trauma, citato due righe sopra. Le ingegnerie geopolitiche, i confini variabili di cui oggi analisti, esperti, generali e corretti opinionisti razzisti blatterano nelle reti dei media, ci inebetiscono utilizzando complesse analisi che a volte soffocano lo slancio solidale. Alleggeriti da queste zavorre, cosa potremmo vedere? E qui arriviamo al punto diciamo della mia digressione di stasera, veloce. Se osserviamo la microstoria volutamente accantonata e censurata, i cui fatti sono quasi impronunciabili, sappiamo che il movimento sionista attua in diversi momenti storici manovre contro gli ebrei sovversivi e contadini dell'Est Europa, utilizzando idee pratiche reazionarie. A Bialystok, gli anarchici organizzati in unione con altri solidali difesero le comunità ebraiche contadine proletarie dai pogrom, e successivamente, cioè, insomma, poi diciamo alla fine della prima guerra mondiale, altri movimenti, insomma, più sempre nell'Europa orientale, di compagni e compagne di origini ebraiche, denunciarono e criticarono il sionismo, che ha tra le sue basi filosofico-culturali anche una reazione antiproletaria e antisocialista nel senso più ampio del termine. Allora, è vero, no? Infatti, cioè adesso scorriamo dal presente alla storia, diciamo, allo storico. È vero che Israele oggi è anche una potenza controrivoluzionaria che agisce soprattutto sui confinanti, no? sugli stati confinanti come Turchia, Egitto, anche Giordania, ci mettiamo dentro, Siria, va bene. Quindi quello che appunto è il nostro obiettivo è stasera della nostra digressione è riandare al repertorio storico, come giustamente dice Stecco, la microstoria ci insegna, insomma ci rieduca rispetto ai massimi sistemi certe volte, come appunto noi vediamo in questa esperienza di Bialystok dell'inizio del Novecento, diventare insomma un sentiero indelebile della memoria, come si diceva prima, identitaria anarchica. Però al di là di questo, come appunto una città che era diciamo in maggioranza popolata da ebrei per motivi vari, che adesso diciamo abbastanza in maniera stringata, appunto questi ebrei erano tutti dei rivoluzionari, questi ebrei insomma, tutti i rivoluzionari di Bialystok erano praticamente di origine ebraica. E poi vedremo se riusciamo anche a inserirci una deviazione anche tra virgolette hollywoodiana. Allora, Bialystok è una città della Polonia di quasi 300.000 abitanti. Lo sviluppo, insomma, suo sviluppo della popolazione inizia fine 800, in quel momento era dopo varie vicissitudini, dopo Napoleone, facciamola così veloce, viene acquisita dall'impero russo ed è sulla frontiera dell'impero russo con la Polonia. La Polonia ha avuto varie forme sia territoriali sia amministrative durante gli ultimi secoli. Dicevo, si sviluppa industria tessile, quindi viene chiamata Manchester del Nord addirittura. L'impero russo diciamo facilita per russificare, per depolonizzare il territorio, facilita l'immigrazione di manodopera ebraica, di origine ebraica. Quindi era circa 60%, a quel tempo erano complessivamente quasi 70.000 abitanti, in gran parte appunto di origine ebraica, molti appunto erano lavoratori operai, ecco. Però erano presenti anche tanti proprietari, padroni delle varie attività, delle varie manifatture, eccetera, pure quelli erano chiaramente spesso di origine ebraica e si riunivano anche nella sinagoga. Quindi velocemente si sviluppa anche il movimento di impostazione anarchica, accanto ad altre tendenze rivoluzionarie che erano i social rivoluzionari e il Bund, diciamo così. E quello che interessa a noi stasera, altrimenti non riusciamo a finire, è che dopo, insomma, nel 1905 il protagonismo di questi gruppi anarchici, chiamiamoli informali, arriva al suo acme, perché appunto c'è un'insurrezione, addirittura prendono il dominio della contea, proprio cacciano la polizia, cacciano le autorità, per ripristinare il potere devono circondare appunto la contea con l'esercito, i cannoni, l'artiglieria. Nel 1905 c'è un tentativo di insurrezione in Russia, perché appunto c'è una problematica, insomma, legata alla sconfitta col Giappone, no? nei territori dell'Estremo Oriente. Allora, andiamo a questo pogrom che viene sventato appunto grazie all'iniziativa di questi compagni del... Sto prendendo tutte queste storie da un bel lavoro che fu fatto nel 2021 delle edizioni Bandiera Nera, si chiamava Anarchici di Bialystok, che era la traduzione, diciamo, con delle aggiunte e delle... insomma una specie di delle modifiche, nel senso che sono stati aggiunti appunto dei pezzi di un'altra opera di questo lo stesso libro, che si chiama appunto con lo stesso titolo, Anarchici di Bialystok 1903-908, e dallo spagnolo, che è invece del 2009, pubblicato Anarchistas de Bialystok, pubblicato a Barcellona nel 2009. Ci sono molte immagini e quelle sono oltre che belle, nel senso sono aiutano, ecco, a ricostruire la vicenda. Ci sono varie foto di compagni in carcere, e in particolare c'è anche una foto del pogrom. Allora, il pogrom erano degli attacchi all'ebreo, praticamente al giudeo, no? Degli attacchi condotti da gruppi di estrema destra cristiani, in quel caso lì ortodossi e anche cattolici, essendo in Polonia, cioè sulla faglia, diciamo. E non ho detto che questi gruppi anarchici erano gruppi molto determinati, erano dell'anarchismo cosiddetto d'azione. Tra l'altro, sto libro questa traduzione in italiano è stata promossa dal compagno Alfredo Cospito, quando ancora prima che andasse fosse seppellito nel regime di 41 bis. Allora, a fine maggio una banda di una cinquantina di soldati ubriachi cercò di fare un pogrom contro gli ebrei del mercato. I nostri compagni, assieme ad altri rivoluzionari, la disperse nel giro di pochi minuti sparando, ma nei primi tre giorni di giugno avvenne il terribile pogrom di Bialystok. Non sto a descriverlo perché i dettagli sono stati resi noti in tutti i periodici legali e nelle sessioni della Duma tenutesi in seguito ai fatti. Dopo il pogrom si iniziò a chiamare la zona dei dintorni della via Surazdskaya e dei suoi quartieri operai la fortezza anarchica, e gli antisemiti non vi si avventuravano. Ritengo necessario sottolineare che il distaccamento che salvò dal pogrom tutta una parte della città era formata da sole 12 persone armate di bombe e rivoltelle, gli altri avevano solo armi bianche, eccetera. Tra questi compagni si distinse per il suo eccezionale valore Moshe Spindler, che era venuto recentemente a far parte del nostro gruppo. Allora, domenica 27 maggio 1906, quando un gruppo di soldati comparve nella birza che era la mensa, cioè una mensa collettiva, infastidendo e colpendo la gente, comparve contemporaneamente un gruppo di poliziotti. Benché non fosse comune che gli alti gradi si facessero vedere in una zona così conflittuale, comparve lo stesso capo della polizia di allora, tale Derkachev. Questo ufficiale era piuttosto anomalo, veniva considerato troppo tollerante nei confronti degli ebrei da tutto l'apparato statale locale. Autore della frase "finché vivrò non ci sarà un pogrom a Bialystok", era insomma un liberale, esemplare, fuori luogo e fuori tempo. Si opponeva alla piccola ma forte lobby delle centurie nere, gruppi di estrema destra. Derkachev si sentiva buono e amato dagli ebrei. In ogni caso, gli operai si intendevano poco di liberalismo e i sottoproletari ancor meno, neppure agli anarchici interessavano queste sottigliezze del nemico. Un poliziotto è un poliziotto, e così gli tirarono un colpo. Sempre il 27 maggio, anarchici lanciarono delle bombe in un distaccamento di cavalleria, uccidendo e ferendo vari soldati. Poi Grossman, un compagno, si recò a Varsavia per mettersi in contatto con il gruppo di combattimento del Partito Socialista Polacco, che in quel periodo attraversava una sua fase terrorista nel senso di seminare il terrore tra i padroni e tra i i loro servi, nel tentativo di convincerlo a preparare un'insurrezione armata. Non ottenne molto e oltretutto venne a conoscenza di quanto avvenuto a Bialystok. Il generale governatore della provincia e nello stesso tempo il pubblico ministero di Bialystok, tale Bogajewski, il commissario Sheremetov e altre alte cariche, gente normale e patriota come tutti gli ufficiali dell'impero russo, non blandi liberali come Derkachev, da ardenti antisemiti, non volevano solo farla finita con la peste anarchica, ma anche divertirsi a modo loro. Il primo giugno uscirono dalle loro chiese in due distinte processioni, una russa ortodossa e una cattolica polacca. Allora probabilmente alcuni del Bund lanciarono alcuni petardi per provocare la marcia ortodossa. Evidentemente quasi tutti i russi lì presenti erano ufficiali e personaggi di destra. Può essere che nessuno lo abbia fatto o che vi fossero state veramente alcune bombe. Comunque, dopo pochi istanti, comparvero i soldati sparando a destra manca e girò la voce che gli ebrei avessero tirato bombe contro i cristiani. Può essere che le ferite di un paio di credenti fossero provocate da colpi di fucile e non dalle bombe, ma le voci furono sufficienti per instillare l'odio razziale. Subito i gruppi formati da poliziotti, soldati, centurie nere, puri e semplici antisemiti, dilagarono per tutta la città. Le guardie urbane, assieme ai cittadini patrioti armati di bastoni, asce e coltelli, saccheggiarono le botteghe degli ebrei, mentre i soldati spararono a chiunque avesse una parvenza ebraica. Gli anarchici e altri ribelli organizzarono la difesa. Il quartiere a maggior concentrazione operaia della città, vicino alla Birza, fu difeso nei tre giorni seguenti con bombe e pallottole. Il primo tentativo dei soldati fu di entrare con la cavalleria in via Surazskaya, ma le bombe lanciate dagli anarchici impaurirono i cavalli e così si salvò la zona. Il 2 giugno anche la polizia iniziò a partecipare attivamente al pogrom. Le spie sapevano più o meno dove vivevano i rivoluzionari e guidarono lì le orde. Nella maggior parte dei casi non ebbero ragione perché questi si difendevano sparando. Alla fine, tuttavia, trascinarono in strada qualsiasi famiglia ebraica, trucidandola. Alcuni di loro, vabbè, questo lo sa altro, sono cose truculente. Dopo che alcuni furono uccisi a bastonate nella sala d'attesa, l'ufficiale di gendarmeria riunì l'orda e ordinò che si disperdesse in città e saccheggiasse. E in città a saccheggiare e uccidere solo i poveri. Era comune che durante il pogrom il grido ebreo si mescolasse con quello di anarchico. La mattanza e le sparatorie di autodifesa ebraica continuarono fino al 3 giugno. Si cercò di attaccare i commissariati e la stazione ferroviaria. Si uccisero vari soldati e poliziotti utilizzando le pratiche della guerriglia urbana. Le vendette continuarono per anni dopo che insomma finì questo pogrom. Niente, questo ho fatto un estratto di questo racconto, ma questo io vorrei ritornarci su questo Anarchici di Bialystok perché contiene insomma tanti spunti e stasera non c'è spazio. Io però voglio fare un'ultima per chiudere salto per dire tutta questa gente che fu perseguitata, che gente, compagni, ma anche massa, cioè classe operaia, diciamo così, perseguitata da tutti questi maledetti, appunto, prima che fossero zaristi, che fossero autocrati, adesso polacchi, che fossero quelli che vennero dopo, no? E di origine ebraica furono anche protagonisti di un'enorme emigrazione. Un film che non può mancare nel patrimonio, chiamiamolo così, di tutti i compagni anche che sono in alta sorveglianza, ma comunque anche nostro, è il mitico film di Michael Cimino, I cancelli del cielo, Heaven's Gate, 1980. È un film che va visto, e racconta proprio la storia di una vera e propria battaglia messa in piedi dai padroni, in quel caso lì dall'associazione allevatori, contro i coloni, virgolette, purtroppo coloni nel senso vero della parola, che andarono a colonizzare e a massacrare, cioè non loro in prima persona, comunque rubarono la terra di quelli che c'erano prima, che erano gli indigeni appunto. In questo caso i pionieri erano proprio questi genti dei territori appunto Russia, Bielorussia, Ucraina, Polonia, e appunto dicevo prima la battaglia, e questi sfruttati, questi appunto immigrati dell'est Europa, 9 volte su 10 erano appunto di origine ebraica, non vendettero cara la pelle, appunto vendettero cara la pelle, reagirono appunto combattendo fino all'ultimo. Adesso mandiamo finalmente un piccolo estratto del film, insomma, I Cancelli del Cielo. Şehit Kovaç. Kastor. Şehit Kovaç. Mitchell Kovaç. Kastor. Kastor et. Kutu grevi. Kastor er. Bene, tengo in sottofondo questa band, loro sono i Brain Dead, band di Amburgo, e dal loro album Weapons of the Week. Comunque siamo in diretta radiofonica, state ascoltando Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Il programma termina adesso alle 21.30, siamo proprio agli sgoccioli. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E non l'ho detto, comunque stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane anche oggi, 22 gennaio 2026. Ricordo come sempre in conclusione del programma i nostri contatti: se volete scriverci tramite posta elettronica potete scrivere a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre ricordo che la trasmissione di oggi la potete sempre riascoltare, ma anche ovviamente tutte quelle delle volte scorse, sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, l'appuntamento ovviamente per il prossimo giovedì. Salutiamo tutti e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio, anzi sulle due web radio, al mattino alle ore 11 su Radio Eustachio e poi nel pomeriggio su Radiazione. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio ancora credo con un brano per questi Brain Dead. Ciao a tutti.